La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Una settimana segnata da due uscite molto importanti, il ritorno di 007 nelle sale cinematografiche italiane con Quantum of Solace, ne parleremo durante la trasmissione fra un po'. Un altro grande film, già visto alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva finalmente nei nostri cinema, si intitola The Burning Plain ed è interpretato da due attrici eccezionali come Charlize Theron e Kim Basinger. Avremo ovviamente i nostri spazi con il DVD Game, insomma tanta carne al fuoco come sempre, quindi buttiamoci subito nel clima cinematografico del weekend con il nostro audio sommario. Pensavo di potermi fidare, ha detto che non era spinto dalla vendetta. Sono spinto dal mio dovere, non deve preoccuparsi per me. Allora, immaginate di essere appena atterrati con lo shuttle su un altro pianeta. Gli abitanti del pianeta però hanno gli occhi a palla, le antenne e le squame. Non sembrano aggressivi, ma vi guardano con diffidenza. Che fate? Il padre voleva che crescessi in fretta per dargli una discendenza. Ma i nostri bambini sono nati con dei problemi. Il padre dice che è colpa del sangue. Come mai così tardi? Sono andata a prendere la stoffa che avevo ordinato e sono andata da Libby. Stavo lì dalle 4. Smettila di fare domande e aiutami. E il film da cui vogliamo partire, quello che ci ha regalato le emozioni più intense due mesi fa quando lo abbiamo visto a Venezia e ancora oggi, è The Burning Plain, letteralmente La pianura che brucia, di Guillermo Arriaga, al suo esordio da regista dopo aver firmato le premiatissime sceneggiature dei film del messicano Inarritu, Amores Perros, 21 grammi, Babel, una storia drammatica di famiglie, tradimenti, passati che tracimano inesorabili nel presente, di madri e figlie sfuggite, indesiderate e finalmente riconciliate. Qui siamo noi da piccoli con mamma e papà. Sembri Betty Boop con i capelli biondi. Questa è l'ultima foto di mia madre. Era il suo compleanno. La vicenda si snoda fra il piovoso Oregon, dove la bellissima Silvia, un'intensa e sofferta Charlize Theron, gestisce un ristorante di lusso, e l'arido deserto messicano, dove due famiglie piangono Gina e Nick, Kim Basinger e Joaquin de Almeida, amanti over 40, padri e madri di una decina di figli, trovati avvinti e carbonizzati nel grande incendio che ha distrutto una roulotte in mezzo alla pianura. Chi c'è dietro quel rogo? Cosa c'era prima e dopo quella morte orrenda? La cicatrice è orribile. Hai sconfitto la morte. Hai combattuto e vinto. La tua cicatrice è bellissima. Arriaga tesse la ragnatela del racconto con il suo tipico stile narrativo, fatto di digressioni e salti spazio-temporali, scarti improvvisi in avanti e bruschi ritorni all'indietro, il che permette allo spettatore di tenere alta la tensione e la concentrazione circa i chi e i tanti perché del film. Alla solida sceneggiatura, sulla bontà della quale non avevamo dubbi, The Burning Plain associa una coppia di attrici, come abbiamo detto, già premiate con l'Oscar e davvero in stato di grazia. Tanto la Theron, in grado di far trapelare dai suoi sguardi intensi il magma emotivo che cela dentro di sé il suo personaggio, quanto la Basinger, davvero un bel ritorno il suo. E poi la regia, per una volta è chiaro perché uno sceneggiatore abbia deciso di passare dietro la macchina da presa, e quel perché risiede nell'abito emotivo che il cinquantenne autore messicano cuce addosso al film, perfettamente coerente con la scrittura asciutta, priva di inutile retorica, insidie che i precedenti Babel e 21 grammi sotto la mano di Inarritu non sempre avevano evitato. Arriaga racconta per illuminarci sui grandi cambiamenti della nostra vita, sempre o quasi conseguenza di fatti traumatici, di svelamenti, scoperte che accendono una nuova luce su noi stessi o sugli altri. Un'opera di grande potenza, The Burning Plain, che consacra la definitiva maturità di un autore. Credi che potresti amarmi? Non lo so, credo di sì. Allora andiamocene via. Solo io e te adesso. Andiamo ora ad ascoltare le parole dei protagonisti, partendo proprio con Charlize Theron, che spiega come l'empatia con il pubblico si crei, perché tutto sommato anche in queste storie sofferte e drammatiche ci siano molti elementi nei quali riconoscersi. Credo che ci sia qualcosa di molto reale nell'esperienza di vedere un film come questo. Perché quando vediamo rimaniamo toccati da quello che accade sullo schermo? Se ci fa piangere o dà un brivido alla schiena è perché perché ci riconosciamo in quella situazione e in quel momento. Può accaderti anche soltanto una o due volte nella vita, ma è un momento in cui tu riconosci te stesso. Durasse anche soltanto il tempo di un battito di ciglia, gioia o dolore che siano, sono comunque chiave che ci mettono in contatto con la storia. I think our condition connects to. E per il regista messicano Guillermo Arriaga è importante anche avere toccato con questo film un tema che è quasi tabù spesso nel cinema, ovvero il tema della morte, e che però è un tema con il quale ognuno di noi prima o poi deve fare i conti. I have been obsessed with the weight of the death of the living ones. Sono sempre stato ossessionato dal peso della morte, su chi resta in vita. Non sappiamo chi siamo se non attraverso gli occhi di chi ci sta vicino. Io da solo non mi posso vedere. Sono le persone che mi conoscono, che mi amano, che costruiscono la mia identità. Così quando qualcuno muore e qualche cosa va perso, l'ossessione mia è capire come la morte di qualcuno cambi la mia identità. D'altra parte viviamo in una società che vuole reprimere l'idea della morte. Ecco perché l'ossessione per la chirurgia estetica, ecco perché tanti prodotti dietetici, è il rifiuto della morte. Ecco allora che il lavoro degli autori è quello di riportare a galla e fare affrontare l'idea della morte. It's the job of a writer or a filmmaker to bring the important things of life, among them death. The Burning Plain, il consiglio di visione di questa settimana della Rosa Purpurea. Andiamo a vedere intanto come sono andate le cose al botteghino. 7 giorni fa, ci racconta tutto nella Screen Parade Daniela Fagion. 16 more minutes, game on! Largo ai giovani, il loro musical fa strike al botteghino. Scende al 5° posto Vicky Cristina Barcelona. La 3ª settimana il film di Woody Allen aggiunge altri 771.000 euro al suo bottino e sfiora i 4.700.000. Ma chi è esattamente che farà l'amore? Si spera tutti e tre. Poco meno di 1 milione il weekend scorso per L'ironia di Tropic Thunder, che al 4° posto supera i 2.660.000 euro, mentre Il caso cinematografico in arrivo dalla Francia, giù al nord, debutta sul 3° gradino del podio con 1 milione tondo e qualche spicciolo. Che c'è peggio di licenziato? Sei trasferito al nord. Al nord? No. Lascia la vetta ed è secondo con 1.300.000. Il tenero Wall-E, che insieme ai rifiuti intergalattici ha raccolto già più di 7 milioni. Ed è quasi con 4.100.000 euro che High School Musical 3 ha travolto anche il botteghino italiano, con la sua energetica carica di musica e buoni sentimenti. La Rosa Purpurea. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, la seconda parte del nostro programma, nella quale affrontiamo ancora un paio di film di quelli che arrivano nei nostri cinema in questo weekend. Non sono film particolarmente riusciti, come vedremo. Uno è Un gioco da ragazze, la proposta italiana, una delle due proposte italiane di questo weekend, e l'altro è Frontiers, che invece arriva dalla Francia. Mi sembra che i risultati complessivamente non siano eccellenti. Del primo film, Un gioco da ragazze, ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento da Roma. Ciao Boris. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, tu hai avuto modo di vedere il film al Festival di Roma. Noi, prima di inoltrarci nel racconto e nella critica, entriamo un po' nel clima del film ascoltando una clip. Mi chiamo Mario Landi, sono il vostro nuovo insegnante d'italiano. Che ci fate a casa quest'ora? Non penserei di mangiare solo quello. Raccontatemi qualcosa, quello che vi piace, quello che non vi piace. Ma parlate di quello che vi interessa. Fabrizio, ci sei? Non commettere atti impuri! Io vorrei che non ti facessi coinvolgere troppo. Che bella famiglia la Felice. Basta con i giochi da ragazzine. Ora facciamo sul serio. Un gioco da ragazze, Boris, che dire, ancora una volta un impianto che sembra, non so per quale motivo, ammaliare particolarmente il cinema italiano degli ultimi anni. Abbiamo parlato male, come per noi andava fatto, qualche settimana fa di Alba Chiara. Ancora una volta ragazze terribili che si spingono oltre. Insomma, cosa succede nel film? Raccontacelo un po' in breve. È una visione di una comitiva di ragazze, sono tre ragazze, Chiara Chiti, Desireno Ferini e Nadir Caselli, che decidono che a studiare non è proprio la cosa più intelligente da fare, è meglio produrre angherie nei confronti di professori, compagni di scuola, divertirsi alle loro spalle, esercitare il proprio vuoto mentale e morale su chiunque e diventare sostanzialmente delle bulle molto raffinate, molto belle, e vivere di sola apparenza. Va detto che, insomma, Matteo Rovere, che ha solo 25 anni, è secondo me uno straordinario regista per quanto riguarda l'aspetto visivo, però certo che un film è fatto anche di una sceneggiatura, è fatto anche di idee, è fatto anche di un impianto, e questo manca completamente. E vedremo che ci sono punti di contatto anche in questa voglia di disturbare prima ancora che di raccontare, con appunto Frontier di Xavier Gens, che di cui parleremo veramente fra poco qui alla Rosa Purpura. Insomma, un cinema giovanile o giovanilista che sembra non riuscire a trovare un modo di essere anche forse meno estremo, non tanto, badate bene, nel linguaggio cinematografico oppure nella, così, nelle scene che mostra, ma proprio nella capacità di raccontare una realtà senza stravolgerla, cioè senza arrivare per forza all'estremo di questa realtà. Mi sembra questo un pochino quello che manca a questa generazione molto giovane ancora di registi. Assolutamente, è inquietante poi che le generazioni X, le generazioni di adolescenti vengano visti o come gli stupidotti un po' comici di notte prima degli esami, o come appunto i diabolici persi e perversi di Rovere e Salvati. Insomma, c'è una volontà secondo me costante di non voler capire queste generazioni, ma di giudicarle e di etichettarle, il che dimostra che l'Italia è un paese per vecchi anche quando sono i giovani a girare. Grazie a Boris Sollazzo e a risentirci qui alla Rosa Purpura. Sempre, quando vuoi. Ed eccoci alla prima finestra con il DVD Game. Come sempre vi faremo ascoltare tre frammenti, tre dialoghi di un film che dovete indovinare, provando a rispondere all'indirizzo di posta elettronica alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere una copia del DVD di questo film. Ovviamente ci riusciranno il più veloce e il più bravo del sabato e della domenica. Ascoltiamo. Quando scade l'ipsis? Fra meno di 36 ore, credo. No. È tutto il tempo che abbiamo. Dì agli ospiti che hanno 5 minuti. O buttali in mare. Vi ricordo ancora la Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato già di che film si tratta, se no più tardi ci sono altre due possibilità. E noi proseguiamo nella presentazione dei film. Non ci siamo divertiti a mettere in questo secondo blocco i film da stroncare, ma il caso vuole che nei cinema dello Stivale arrivi anche Frontiers, con la S fra parentesi, chissà perché poi. Ora vi voglio leggere le premesse del regista direttamente dalle note di produzione. Il regista è l'esordiente francese Xavier Gens, per capire quale livello di presunzione si possa raggiungere, o forse a volte è un po' la comunicazione che forza la mano. Allora, nelle note si dice: il film è una violenta testata sul viso diffidente e condiscendente del cinema francese, un film che punta senza alcun riservo a farvi urlare per la paura, lo shock e la nausea. Si tratta di un modo di fare cinema viscerale, all'avanguardia e privo di qualsiasi freno, per cui il regista Xavier Gens si mette in prima persona in serio pericolo. Ma va avanti il regista, dice: volevo fare una sorta di un tranquillo weekend di paura alla francese. Questo film è uno schiaffo in faccia a un certo tipo di cinema, ripete, noioso e accondiscendente. Ora, uno si aspetta sicuramente, però dopo queste parole, un film rivoluzionario nello stile, un'invenzione che apre una strada nel linguaggio cinematografico, uno schiaffo al cinema francese. E vediamo invece cosa bolle nella pentola di Frontiers e se queste ambiziose premesse sono state confermate. È la consueta situazione da survival, sottogenere dell'horror in cui un gruppo di persone deve sopravvivere ai cattivi di turno che li fanno prigionieri. Tutto inizia con una rivolta giovanile tipo banlieue di Parigi. Quattro ragazzi fuggono inseguiti dalla polizia, hanno con sé una borsa piena di soldi frutto di una rapina messa a segno approfittando del caos. Sentendosi braccati in fondo a una strada cieca, aprono il fuoco contro gli agenti. Un ragazzo rimane ferito a morte, gli altri lo scaricano in un ospedale e scappano in campagna. Al classico bivio prendono per un albergo semiabbandonato. Buonasera, signore. È possibile avere una stanza? Tutto è possibile qui. Le camere sono libere. Ah, beh, la fortuna è dalla nostra. Chi lo sa? Hai un numero portafortuna? Il 2. Si possono fare tante cose, il 2. Voi due? Noi tre. L'hotel è gestito da due sorelle morbosamente inquietanti, da un fratello violento e da un ex colonnello nazista, personaggio che sfiora sinceramente la macchietta, chiamato semplicemente il padre. Unica ospite fissa, una giovane donna che si veste e parla come una bambina di 11 anni. Arriva. Chi arriva? Il padre. Dritta, non ama le persone con me. Benvenuta a casa nostra, signorina. Che qualcosa non vada, i quattro fuggiaschi lo capiscono subito, troppo tardi però per tentare la fuga. La caccia è cominciata. Bizzang! Los Holzang! Vai a prendermi le pinze! Che cosa mi volete fare? Una piccola precauzione per farti passare la voglia di andare a passeggio. Allora, il regista dice di essersi ispirato a Non aprite quella porta, avete sentito, a Un tranquillo weekend di paura, addirittura a Salò di Pasolini, niente meno. Ma a fronte di tutto questo gonfiar di petto, nel film c'è davvero poco. Frontiers, girato tutt'altro che male, badate bene, questo è l'unico pregio, se vogliamo, è un esercizio di stile violento e fine a se stesso, dove la politica non c'entra nulla. Andatevi a rivedere Zombie di Romero, se volete accostare l'horror alla denuncia politica. Si tende a schifare lo spettatore più che a spaventarlo, anche perché di viscere di animali, sgozzamenti, gente appesa a testa in giù coi piedi uncinati e torture varie, ormai ne vediamo tutti quotidianamente nei videogames e la sua fazione, ahi noi, pare aver trionfato. Meglio l'horror che ci faceva sobbalzare sulla sedia. E prima di chiudere questa seconda parte del programma, noi vogliamo fare una piccola incursione in un festival che non è un vero e proprio festival, si chiama View Conference, si svolge a Torino, comincerà l'11 novembre, finirà il 14, saranno 4 giorni davvero straordinari, pieni di grandissimi ospiti del cinema d'animazione internazionale. Infatti View Conference è una sorta di riunione mondiale di tutto il mondo della computer grafica applicata, certo, ai videogiochi, alle applicazioni principali, ma fra le quali c'è ovviamente anche il cinema di animazione. Allora, in pochi giorni a Torino arriveranno Paul Topolos della Pixar, che ha partecipato alla realizzazione di Wall-E, Mark Osborne, co-regista di Kung Fu Panda, Graham Jack, che ha lavorato su Hellboy 2 The Golden Army, e ancora il grande Brad Lewis, uno dei magici produttori dell'animazione Pixar, ora regista del prossimo Cars 2. Insomma, l'elenco è davvero pieno, la formula è interessante oltre che di grande apprendimento. Noi vogliamo parlare con Maria Elena Gutierrez, che è l'inventrice e la direttrice di questo View Conference. Maria Elena, come siete riusciti ad avere questo parterre de roi di ospiti davvero straordinari di spessore mondiale? Abbiamo lavorato solo durante le ultime edizioni a far sì che il festival fosse riconosciuto e chiacchierato in ambienti importanti, quindi prima cosa abbiamo fatto tutta una serie di accordi con manifestazioni analoghe alla nostra che ci davano una certa legittimizzazione. Per esempio l'accordo siglato con il SIGGRAPH ha fatto sì che noi diventassimo l'evento italiano considerato quello legittimo per eccellenza. Quindi sicuramente il problema che abbiamo avuto, soprattutto per questa edizione 2008, era non tanto chi dobbiamo invitare, perché le persone si invitavano da sole, cioè tu hai menzionato Brad Lewis, che è uno dei producer di Hollywood più importanti in questo momento, cioè Brad Lewis sicuramente non ha tempo per andare in giro alle conferenze. Noi abbiamo avuto l'imbarazzo di gestire un suo desiderio di venire alla nostra manifestazione. Brad Lewis ha fatto il primo film animato in 3D, cioè Zeta la formica, per cui ha vinto un Hanna e Barbera, e poi dalla DreamWorks è passato alla Pixar, dove ha avuto l'Oscar per Ratatouille. In questo momento Brad Lewis sta facendo la regia di Cars 2. Lui è entrato nel mondo del cinema come attore, faceva la parte del Big Bird in Sesame Street. Avere Lucia Modesto che viene a raccontare il dietro le quinte di Madagascar 2 molto prima che il film esca in Italia è una chicca pazzesca. Avere la possibilità di avere Paul Topolos che racconta il suo lavoro per Wall-E. Paul Topolos sicuramente è l'artista più importante della Pixar per quanto riguarda il matte painting, e c'è anche Hiroyuki Kobayashi della Capcom, che presenterà in anteprima italiana un pezzo del making of di Resident Evil The Generation. Grazie a Maria Elena Gutierrez, direttrice di View Conference, vi ricordo, a Torino dall'11 al 14 novembre. Rosa purpurea. Le note inconfondibili di Henry Mancini ci introducono in questa terza parte della Rosa Purpurea e nel mondo eccitante di 007. Arriva nei nostri cinema Quantum of Solace, il sequel di Casino Royale che 2 anni fa ci portò alle origini della saga dell'agente segreto James Bond. In quei panni eleganti c'è ancora Daniel Craig, ha visto per noi il film. Daniela Faggion. Non conosciamo mai nessuno a fondo, non è vero? Ma io devo sapere, Bond. Devo sapere che posso fidarmi di lei. E non lo sa. Solo un bastardo senza cuore non cerca di vendicarsi di chi ha ucciso la persona che amava. Una nuova rete di criminali viene scoperta dai servizi segreti di Sua Maestà. Una rete di uomini potenti che, dietro la facciata dell'impegno ecologista, mira a conquistare le risorse nei paesi del Sud America. Petrolio, diamanti, ma soprattutto acqua, l'oro del terzo millennio. In tutto questo si imbatte l'agente 007 mentre cerca i responsabili della morte della sua Vesper. Mi dispiace per quello che è successo a Vesper. Credo che ti amasse. Fino al momento in cui ha deciso di tradirmi. È morta per te. La caccia di James Bond si intreccia con quella della splendida Camilla, cui un generale boliviano, prossimo a diventare dittatore del paese proprio col sostegno della misteriosa organizzazione, ha ucciso anni prima i genitori e la sorella. Per conquistare quel tanto di sollievo che solo la vendetta può regalare, Bond deve di nuovo infrangere le regole e trovarsi nel mirino dei suoi stessi servizi segreti. In addestramento ti insegnano che quando l'adrenalina sale devi compensare. Una parte di te non ci riuscirà perché questo è un fatto personale. Prendi un bel respiro. Ti basta un solo colpo. Un agente segreto di Sua Maestà che non si porta a letto la Bond Girl di turno non è 007. È un'ottima spia, indomabile e combattiva, ma non è James Bond. Anche perché mai per tutto il film la chiosa sono Bond, James Bond sigla il suo operato. Detto questo, Quantum of Solace è un buon film d'azione con scene di combattimento spettacolari e acrobatiche e una tempistica molto più serrata di Casino Royale, di cui è il sequel a tutti gli effetti, mentre del racconto di Ian Fleming Quantum of Solace appunto conserva in pratica solo il titolo. Daniel Craig si mostra molto più a suo agio nei panni di 007 rispetto alla prima esperienza di 2 anni fa, come se fosse riuscito a levigare un po' della sua ruvidezza a favore di un personaggio dal passato cinematografico così importante. Inizialmente rifiutato dai fan della serie, ora Craig piace molto. Sentiamo da lui se non abbia paura di restare incastrato in questo ruolo. Yes, of course. Sì, certo, ma è un peso piacevole da portare. Non mi lamento se mi incastrano nel ruolo. Avevo considerato questo problema nel momento in cui ho accettato la parte la prima volta. Prima di interpretare Bond, comunque ero già caratterizzato con altri ruoli. Questo è un nuovo percorso, una nuova strada. Se mi renderò conto che mi mobilizza, allora potrei anche riconsiderare la cosa. L'arrivo in Italia del nuovo film di 007 ha dato il via a un autentico vulcano di iniziative un po' in tutto il paese. I fan club si sono mobilitati, per esempio a Gorizia venerdì scorso c'è stato un evento che è durato tutto il giorno, il James Bond Day, nel quale si sono visti film vecchi come Licenza di uccidere, l'anteprima ovviamente del nuovo Quantum of Solace, incontri, presentazioni di libri, ma situazioni di questo tipo si sono svolte un po' in tutta Italia. Cosa pensano però i fan italiani di questo nuovo James Bond? Chiara Pizzimenti lo ha chiesto a Edward Coffrini dell'Orto, di professione gestore di un hotel, l'Hotel Admiral a Milano, nella cui hall colma di cimeli, però capite subito perché questo signore è il fan numero uno di James Bond, anzi il fan numero 001. Sentiamolo. È veramente il Bond di rottura completa, intanto perché si tratta di un prequel, cioè un Bond prima di essere il vero Bond, e questo sarà un sequel del prequel, quindi un gioco di parole un po' complicate. Poi lui ha un volto che decisamente va al di là del Bond che noi siamo abituati a vedere, perché non ha una bellezza classica come deve essere quello di 007, quindi ha già creato un po' di problemi per i puristi. Invece ha tirato uno 007 miliardi di persone in più, che sono i giovani e altri universi che prima James Bond non riusciva ad accalappiare. Quindi grande successo al botteghino. Come sono le diverse interpretazioni di Bond al cinema? Ma nell'immaginario creativo Bond è Sean Connery, quindi questo è assodato. A ritroso direi Brosnan, per me era perfetto ancora oggi. Era l'ideale mix tra Connery e Roger Moore adattato ai tempi nostri. Timothy Dalton era bravissimo, era un attore teatrale molto bravo ed era un Bond molto vicino al Bond di Ian Fleming. Dopodiché c'è stato Roger Moore, quello che ha fatto più film di Bond consecutivi. Lui mi ha detto: io ho dovuto cambiare completamente, non potevo competere con Sean Connery, perché lui era già un monumento affermato, e quindi l'ho messo sull'ironia. Ci fu, prima di Connery, che è considerato il maestro, un veloce passaggio di George Lazenby, che fece quello che a mio avviso è il più bel film a livello di storia legato a James Bond, quando James Bond si innamora, si sposa e soprattutto scia come mai prima d'ora e mai più in passato. Ed è arrivato il momento di ascoltare una nuova traccia del film misterioso di questa settimana. Ascoltate. Lei è piombato in un'ambasciata, violando l'unica regola assolutamente inviolabile delle relazioni internazionali. E per cosa? Per uccidere un signor nessuno? Dovrebbe mostrare un minimo di giudizio. Infatti, ho pensato che un costruttore di bombe in meno al mondo fosse un bene. La Rosa Purpurea, @radio24.it, ve lo ricordo, l'indirizzo di posta elettronica per giocare e provare a vincere proprio il DVD di questo film. Più tardi, un'ultima possibilità. L'esibizionista. Dove? Dove? Ah, ma no, è una turista. Senti, scusa, ce la daresti una mano? Come lo dovete mettere? Ma uno accanto all'altro. Ma non lo fai col manico, scusa? No, quello lo insieme dove. Il dialogo che avete appena sentito è tratto dal film Un altro pianeta, presentato a Venezia e da questo weekend nei cinema italiani, distribuito da Replays Film. È il racconto di una giornata d'estate vissuta sul litorale Domizio. Salvatore, nudista gay, si reca in spiaggia per dimenticare un amore appena scomparso. L'incontro con Daniela e le sue strampalate amiche, venute a passare una giornata di mare e sole, con la possibilità però di un brivido, di qualche incontro elettrizzante, gli aprirà l'orizzonte di una giornata davvero diversa. Una giornata particolare, che renderà amiche persone differenti e fin lì anche diffidenti. Già nel pomeriggio Salvatore, Daniela, Stella, Cristiano saranno compartecipi l'uno della vita dell'altro, come se si conoscessero da anni. Prima di sera metteranno a nudo, oltre che il proprio corpo, la propria anima, scoprendo forse quella vera. È bella sta spiaggia, eh? C'ero stata mai. Ma voi al nord come fate? Ma guarda che c'è il mare da noi. Rimini è famosissima, la Riviera Adriatica. Solo che io non ci vado tanto perché è pieno di stabilimenti, famiglie, bambini che strillano. Qua invece teniamo i trans. Vabbè, che te fanno? Strillano pure quelli. Non c'è molto di più da raccontare della trama di questo film, cui il budget iniziale 1000 euro suonava più come un paradosso che come una scommessa. Eppure Stefano Tummolini ce l'ha fatta a mettere in scena lo spirito di una riflessione di Cesare Zavattini, che diceva che l'utopia del cinema consiste nel far diventare film 90 minuti della vita di un uomo, rendendoli interessanti per lo spettatore. È proprio la sorpresa della quotidianità, quel senso di stupore che ci prende quando scopriamo chi ci sta vicino, diverso da come ce lo aspettavamo, magari solo perché finalmente abbiamo avuto un po' di tempo per parlarci. Sono questi gli ingredienti che danno senso al film, al quale scusiamo ovviamente tutti i limiti tecnici, girato in digitale, in presa diretta, con i pochi soldi a disposizione usati per le cassette e i cestini pranzo, mica fronzoli ed effetti speciali. Ciò nonostante ne esce un film non privo di un suo fascino spurio, rudimentale, radicale, come certi fiori che fanno capolino dalle dune della spiaggia, dove meno te l'aspetti. Ed eccoci puntuali al nostro appuntamento con Trailer USA, come sempre le anticipazioni del grande cinema americano con i suoni e i dialoghi dei film, dei trailer in anteprima. Dobbiamo parlare di Clint Eastwood oggi con la nostra Michaela Bellisario, perché è un momento di grandissima attività per il vecchio Clint, che sta per uscire nelle sale italiane con The Changeling dalla settimana prossima nei nostri cinema. Ne parleremo qui alla Rosa Purpurea, ovviamente, il film è tra l'altro strepitoso. Poi sta per uscire un suo nuovo film in America, e di questo parliamo fra poco, e proprio questa settimana è arrivata la notizia che Dirty Harry si occuperà anche di una biografia cinematografica, di un biopic sul grande scrittore Mark Twain, quello di Tom Sawyer per intenderci. Insomma, davvero produttivo al massimo Clint Eastwood. Allora, Michaela, innanzitutto ciao e ben ritrovata qui a Trailer USA. Ciao Franco. Allora, dicevamo, questo nuovo lavoro di Clint Eastwood, mentre la settimana prossima arriva The Changeling in Italia, il 17 dicembre in America esce questo film che si intitola, curiosamente per noi italiani, Gran Torino. Che cos'è? Sì, Franco, come dicevi, il film si intitola proprio così dal nome di questa famosa macchina della Ford, appunto la Gran Torino, che impazzava negli Stati Uniti negli anni 70. Tanto per restare in tema, almeno così tutti potranno immaginarsela, è la macchina usata ai tempi di Starsky e Hutch. Gran Torino è la storia di un veterano della guerra di Corea, un vedovo solitario e forse anche un po' scontroso, Walt Kowalski, interpretato proprio dallo stesso Clint Eastwood, che un giorno entra in conflitto con i vicini. Un ragazzo cinese borderline, Tao, cerca di rubargli l'unica cosa a cui tiene, cioè questa Gran Torino del 1973, da cui si scatena insomma tutta la trama. Ora sentiamo un pezzo del trailer in cui appunto gli viene rubata la macchina e Eastwood tira fuori il fucile dall'armadio. Get off my lawn. You better watch your back. Thank you. Beh, figuriamoci se il vecchio Clint non tirava fuori l'artiglieria. A questo punto, mica e entrano in ballo i cinesi. Sì, proprio così. Il nostro Walt Kowalski entra in contatto con la comunità cinese, soprattutto con una pericolosa gang giovanile, e per lui inizia una nuova guerra contro i musi gialli, proprio come ai tempi della Corea. Sentiamo ora il trailer in cui una ragazza cinese dice a Kowalski che è diventato il nuovo eroe della zona. Why are you bringing me all this garbage anyway? Because you saved Tao. I didn't save anybody. You're a hero to the neighborhood. I'm not a hero. Era Gran Torino, il nuovo film di Clint Eastwood nelle sale americane dal 17 dicembre, mentre ricordiamo ancora nelle sale italiane la settimana prossima The Changeling. Grazie a Micaela Belisario. Ciao Franco, alla prossima settimana. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea di questa settimana, come sempre dedicata ai DVD. Lo faremo con le recensioni, con Claudio Pofi fra poco. Prima però apriamo una parentesi su una iniziativa lanciata da una grande casa, da un colosso di distribuzione cinematografica e di produzione come la Warner Bros., che compie 85 anni. Per festeggiare questo anniversario, oltre alla ripubblicazione di una serie sterminata di capolavori, esattamente 85, uno per anno potremmo dire, che fanno parte del listino Warner in DVD, con i quali giocheremo nelle prossime settimane, viene lanciato un concorso, un contest, una gara molto molto originale, che vede protagonisti tutti quelli che vorranno rifare uno spot proprio sulla base di un film della Warner. Ce ne parla Giovanni Cogliati, direttore marketing di Warner Home Video. Chiediamo direttamente agli appassionati del grande cinema di creare quello che sarà lo spot ufficiale dell'85esimo anniversario. Quindi questa è la vera grande attività e novità che abbiamo buttato sul campo. La meccanica è fatta attraverso Current, che è questa nuova televisione che fonda assieme quelle che sono due grandi realtà, quella che è internet e quella che è la televisione. La meccanica consiste nel rigirare uno spot preso da uno degli 85 film selezionati da parte di Warren, caricarlo in internet nel sito di Current, fare in modo che tutti i navigatori, tutti quelli che hanno voglia di partecipare a questo tipo di attività votano, e il più votato viene direttamente utilizzato da noi come spot ufficiale dell'85esimo anniversario in tutte quelle che sono le nostre poi pianificazioni televisive. Si può girare con qualsiasi mezzo, immagino, no? Assolutamente, c'è assolutamente la possibilità di girare con qualsiasi mezzo. Il trucco è avere proprio un sistema con il quale fai semplicemente attraverso internet l'uploading, quindi questa è una cosa facilissimo da fare chiunque, basta avere una connessione in rete, quindi ognuno ha modo di andare a rigiocare, rigirare lo spot come meglio lo crede, dando il massimo spazio a quella che è la creatività di ognuno. Era Giovanni Cogliati della Warner che ci ha aiutato un po' a inquadrare questa iniziativa, questo concorso che può fare di ognuno di voi praticamente un potenziale regista. Ora noi andiamo ad ascoltare la terza traccia del DVD Game di questa settimana. Posso darle un passaggio a casa? Quello sì che lo farebbe davvero impazzire. Temo di non essere così crudele. Forse è solo fuori allenamento. È probabile. Che ne dice di un drink da me? Insieme a lei? E qui vicino? Molto. Un drink. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere questo DVD. Noi siamo a questo punto allo spazio invece delle recensioni con Claudio Pofi, che saluto. Ciao Claudio. Ciao Franco, eccoci pronti. Partiamo come sempre da 7 giorni fa, quando avevate ascoltato questa clip. Cosa è cambiato? I topi non avevano nipoti. E cos'è? Cos'è questa storia dei topi nipoti? Ti arrendi? Sì, mi arrendo. È un palindromo. I topi non avevano nipoti. Hai capito? Si legge anche al contrario. Si trattava di Caos Calmo, il film con Nanni Moretti, molto riconoscibile, anche per questo molti di voi hanno indovinato. I più bravi e i più veloci però sono stati Gianfranco Viola, di Fidenza, e Anastasia Marangon di Jesolo. Vinceranno e riceveranno a casa il DVD di Caos Calmo. Allora Claudio, raccontiamo un po' com'è fatta questa produzione. Sì, è stato realizzato ottimamente, il prodotto da parte di 01 Home Entertainment, su un disco doppio strato troviamo il film con un'ottima qualità, c'è qualche piccola flessione nei passaggi notturni per quanto riguarda il contrasto, ma più che altro evidente su schermi di grandi dimensioni, la traccia in Dolby Digital multicanale è pregevole, sono presenti tra l'altro degli extra molto interessanti perché c'è il commento di Antonello Grimaldi, del regista, che approfondisce ulteriormente i segreti, i pensieri sulla lavorazione, sono delle scene tagliate o scene modificate, sempre con l'ausilio eventuale del commento del regista, un backstage, interviste e addirittura il videoclip musicale L'amore trasparente di Ivano Fossati. E allora noi andiamo avanti con un'altra proposta di questa settimana, si intitola L'amore non basta, ascoltiamo la clip. È tardi mentre ti scrivo queste poche parole. Non posso non pensare a te e a noi e a quello che rappresenti per me. Comunque non è mia intenzione convincerti. Già troppe volte l'ho fatto. Non penso sia giusto perdersi. Non con l'amore che ci unisce. È il titolo di Mediafilm, il DVD di Mediafilm distribuito da 20th Century Fox, ci racconta la storia di un amore difficile da parte di Martina, un assistente di volo, e di Angelo, un ragazzo che ha perduto di recente il padre, non riesce a metabolizzare la perdita della figura paterna, un amore molto difficile, complesso, un film delicato sicuramente da riscoprire che insomma, è passato discretamente inosservato, la qualità dell'opera è notevole, tra l'altro inedita troviamo disponibile la traccia in italiano in DTS oltre che la consueta Dolby Digital per ulteriore approfondimento per quelli che sono i particolari audio di questo film e tra i contenuti speciali segnalo un interessante dietro le quinte e uno speciale sulla musica del film. E a questo punto noi chiudiamo con un'altra recensione che in realtà è la recensione di un cofanetto, è un omaggio a cui teniamo molto, a cui vogliamo dedicare spazio perché lo fa una meritoria casa di distribuzione di cinema di grande qualità, di riscoperte del passato come la Teodora Film, ma soprattutto perché si tratta di Carol Lombard, una delle attrici forse meno famose rispetto al suo periodo, anche se è un'attrice straordinaria, è stata un'attrice straordinaria, che ha lavorato con tutti i più grandi registi del cinema americano fra le due guerre, diciamo. Un nome, Ernest Lubitsch, tanto per citarne uno. Allora Claudio, cosa troviamo in questo cofanetto? Beh, all'interno del cofanetto sono presenti quattro dischi con cinque film che sono i seguenti: L'impareggiabile Godfrey, Nessun uomo le appartiene, Nulla sul serio, I milioni della manicure e Swing Eyes sui Glow. Tra l'altro questo titolo è inedito in Italia. Grandissima cura da parte di Teodora, oltre alle opere ci sono addirittura delle rare comiche presente la Lombard protagonista, fino addirittura ai filmini familiari dell'attrice con il marito Claire Gable. Davvero un lavoro straordinario questo di questo cofanetto. E noi proprio su questa operazione dedicata a Carol Lombard ascoltiamo proprio Vieri Razzini, critico cinematografico, storico del cinema e cofondatore della Teodora. Sentiamo. Questo 6 ottobre era il centenario di Carol Lombard e mi hanno detto beh allora facciamo un omaggio, facciamo un cofanetto, ci sono cinque film che sono veramente molto belli, fra cui un inedito di Mitchell Eisen che si chiama Swing High, Swing Low, che è veramente un film molto affascinante, molto curioso, pieno di musica e lei canta due canzoni in modo divino. La riscoperta di un'attrice così, sai che cosa? È molto interessante perché è stata la prima bellissima donna che fosse contemporaneamente anche un clown, anche proprio di comicità scatenata. Cioè, noi abbiamo avuto con le stesse caratteristiche, abbiamo avuto Monica Vitti, per esempio, no? Quando si è scoperta la vena comica di Monica Vitti, che era una bellissima donna, oppure Goldie Hawn, eccetera. Lascio da parte Marilyn, perché Marilyn è sempre una cosa completamente a sé. Poi ci sono appunto titoli celeberrimi come L'impareggiabile Godfrey, no? Con William Powell, come Nulla sul serio, che l'altro film di William Wellman, uno dei più belli, scritto da Ben Hector, tra l'altro la prima commedia mai fatta a colori. E con Carol Lombardo noi chiudiamo questa puntata della Rosa Purpurea, questo spazio dedicato ai DVD. Grazie a Claudio Poffi. A presto, un saluto. E a tutti gli amici all'ascolto, l'appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24 con la Rosa Purpurea per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.